Ringraziamo il professor Caracciolo per le suggestioni, le riflessioni che ha portato alla discussione e diamo la parola immediatamente al professor Sergio Quincio, la cui relazione suona appunto come da programma Silenzio e Parola nella cultura ebraica contemporanea, al termine che avrà luogo intorno 20:15 a mezzogiorno, avrà luogo una pausa fino intorno a mezzogiorno e 5. Dunque non sto a tentare di spiegare preliminarmente perché ho un interesse a trattare del tema del silenzio e della parola nella cultura ebraica contemporanea. Sennò dovrei fare una specie di preconferenza, no? Spero che si deduca dopo. Ecco la ragione per la quale, a mio avviso, è importante guardare a come gli ebrei guardano al silenzio e alla parola. Guardano al silenzio e alla parola in una maniera che a me sembra molto particolare e dalla quale possiamo sperare. Gershom Scholem, il grande studioso dell'ebraismo recentemente scomparso, insiste in più luoghi sul carattere determinato e articolato, sulla univoca chiarezza del linguaggio profetico, che è il linguaggio in cui Dio nella Bibbia si rivela al suo popolo. La forma di tale linguaggio è infatti anzitutto quella della Torah, cioè dottrina. Legge che si rivolge esplicitamente a tutto il popolo e che da tutti può e deve essere compreso e seguito. La Bibbia è la rivelazione di Dio, è la parola che lo svela. E Scholem, questo autore, non manca di mettere in luce un'opposizione tra il linguaggio profetico e il linguaggio mistico, al quale linguaggio mistico attribuisce caratteri opposti. Si vede in proposito soprattutto il capitolo iniziale delle grandi correnti della mistica ebraica, questo libro di Scholem, che circola in Italia in più di una traduzione. Ma la parola della rivelazione biblica, concreta ed esplicita, è proprio per questa salvifica, si libera in realtà sul silenzio. André Neher, questo anziano studioso ebreo, credente in Dio e osservante scrupoloso della Torah, oggi uno dei maggiori interpreti dell'ebraismo che vive da molti decenni a Gerusalemme, osserva, a questo proposito del silenzio nella Bibbia, che nella Bibbia la parola non è né all'inizio né alla fine, solo in mezzo, ma è ai due capi, inizio e fine, sopraffatta dal silenzio, poiché il silenzio è all'inizio della Bibbia, nel prologo caotico che non ha mai conosciuto parola alcuna e i cui riferimenti esistenziali sono la morte e la morte, che sarebbe il tohu bohu. E poiché il silenzio è anche alla fine, al di là della Bibbia, nella zona di brusca estinzione del dialogo profetico, parlando di Dio, zona in cui la notte ancora adesso si adombra, perché la rivelazione biblica è conclusa. Dio non parla più direttamente, pubblicamente agli uomini. Aggiunge Neher. Immersa così nel silenzio con i suoi due capi, prima e dopo, la Bibbia non è forse il documento teologico più inquietante che mai sia stato offerto alla riflessione umana? E il pensiero ebraico sarebbe rimasto refrattario a tale inquietudine? Questa è la situazione di me. Dio sta dunque tra la parola che lo manifesta e il silenzio che lo nasconde, perché i due capi di questa parola sono il silenzio iniziale e finale. L'ebraismo è dominato da molti secoli e cioè dalla fine della rivelazione biblica e dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme, dal nascondere del silenzio. Un silenzio grande, profondo, radicale, terribile, perché a tacere è l'assoluta parola divina. Silenzio è tanto più grave, tanto più enorme, in quanto a tacere non è una parola tra le tante parole, ma è la parola di Dio. Quella parola di Dio per mezzo della quale, con le lettere dell'alfabeto, il mondo è stato creato, come è scritto nell'antico Sefer Yetzirah, questo testo ebraico scritto tra il secondo e l'ottavo secolo. Questo libro della creazione, un libro molto oscuro, praticamente di Bibbia, scritto anche in italiano, un piccolo libro, ma dove c'è questa idea che Dio crea attraverso le lettere dell'alfabeto, attraverso la parola. Il mondo misterioso della divinità è infatti, per la tradizione ebraica, non il mondo del silenzio, ma un mondo del linguaggio. Dio crea per mezzo della parola, il fiat di Genesia. E la venerazione millenaria dell'ebreo per ogni segno della parola non è mai venuta meno. La parola, la lettera è fatta. Posta così in Dio, proiettata così in Dio, la tensione ebraica fra parola e silenzio si fa estrema, tragica, fino alla insostenibilità. Quanto la parola biblica è sentita come definita ed esplicita, una legge, un comandamento, una dottrina, un precetto, sebbene poi di fatto abbia sempre costretto a una catena di interpretazioni diverse, in attesa che la pienezza messianica stabilisca la sua perfetta e definitiva trasparenza, comunque la parola di Dio è pensata come esplicita e univoca. Quanto questa parola di Bibbia che è sentita come definita ed esplicita, tanto il silenzio è per sua natura indefinito, molteplice, irriducibile a un unico senso. Il libro di Nehemia, dal quale ho poc'anzi citato, è anzitutto un'ampia fenomenologia del silenzio. C'è il silenzio di Dio, il silenzio dell'uomo, il silenzio del creato, il silenzio pietrificato della vittima, chiuso nel suo terrore, il silenzio che invece rende possibile un'intima comunicazione tra gli esseri umani anche al di là della stessa parola, c'è il silenzio della mancata risposta, del rifiuto, c'è il silenzio della preghiera, dell'estasi, dell'appagamento, c'è il silenzio allucinante che si respira nei racconti e nei film dell'orrore. Ma il silenzio al quale pensa il pensiero ebraico contemporaneo, sebbene racchiuda in sé, nella memoria o nella nostalgia o nella speranza, ogni altro possibile silenzio, è il silenzio di Auschwitz. Tutti i dottori ebrei insistono. È un silenzio avvenimento, silenzio degli uomini e della natura indifferenti allo stranamento, silenzio dei morti, ma soprattutto silenzio di Dio, che tace di fronte all'orrore. È dichiaratamente questo il silenzio che ha spinto Ner, nel libro che ho citato, la Legge della Parola, tradotto anche in italiano, a riflettere sul silenzio della Bibbia. Fu tale silenzio, dice Ner, che rovesciando da capo a fondo l'insieme delle nostre letture umane, tendeva a capovolgere altresì la nostra lettura della Bibbia. Questo avvenimento, il cui nome da solo costituisce l'invito più tragico all'incontro con il silenzio, ma il cui nome da solo ancora introduce in questo silenzio il silenzio della Bibbia, poiché nel cuore dell'incontro è il popolo biblico che bruciò di silenzio, questo avvenimento limite nella storia umana del silenzio è il silenzio di Auschwitz. questa è la situazione, una situazione da nero. Nell'ebraismo, non soltanto contemporaneo, il silenzio si connota dunque soprattutto in senso negativo. Ma si tratta di una negatività dialettica che rinvia al positivo. Il silenzio ha in sé l'enorme potenza del negativo, perché è dal silenzio che scaturisce la parola. Si può, credo, riconoscere un ruolo diverso del silenzio nella tradizione teologica dell'ebraismo e nella sua ispirazione laica che si svolge secondo categorie storiche e psicologiche. Mentre nel pensiero religioso, o a sfondo religioso ebraico, il tema del silenzio è poco trattato. Il libro di Nerva, quale ho citato più o meno a mia conoscenza, è l'unica trattazione tematica su questo argomento. Mentre quindi nel pensiero religioso ebraico il tema del silenzio è poco trattato, come se l'impazienza della speranza religiosa urgisse verso la parola che si attende emergere dal silenzio, parola di Dio. Nel pensiero laico ebraico, il silenzio ha invece un grande ruolo. Il non credente abita infatti stabilmente al di qua della parola di cui il credente attende la manifestazione, quindi resta nell'ambito del silenzio e si occupa di questo. La sua attenzione non è verso la parola, ma è verso il silenzio. L'ebraica psicoanalisi freudiana, come sapete sono state scritte libri che hanno messo in luce la radice, la profonda radice ebraica della psicoanalisi freudiana, è per così dire tutta costruita sul silenzio. L'inconscio, che la psicoanalisi indaga, non ha parole. Il suo linguaggio è molto ottenuto, si esprime attraverso l'atto, movimento, sogno. E il buon analista per lo più tanto, o parla poco, e così facendo sonda le zone di silenzio della mente del paziente. Il paziente parla, racconta, ma a svelarlo non è quello che dice, bensì piuttosto quello che suo malgrado filtra dal non dire. Anche qui, comunque, anche in questo modo, analitico freudiano di guardare al silenzio, comunque la mancanza di parola, il silenzio, nella sua stessa potenza e profondità, perché è lì che si può capire tutte le mezze della psiche umana, ecco, ha connotati negativi. Il silenzioso inconscio ebraico freudiano è infatti quello che sta sotto, l'inconscio è un inconscio che sta sotto, negativo, basso, non quello che sta sotto, come risulta invece nelle dottrine mistiche di orientamento panteistico, dove è inteso piuttosto come super conscio, un non cosciente che non è un subconscio, ma è sopra cosciente, come stato iperlogico nel quale si supererebbe la distinzione tra soggetto e oggetto e si penetrerebbe l'intima essenza della soluzione. In questa direzione misticheggiante, incontriamo nel platonico Menone lo schiavo che, opportunamente interrogato da Socrate, ricava dal proprio fondo, dice Menone, le iperuraniche conoscenze che non sa di avere. È un inconscio che però è un superconscio, perché gli stessi che riattingono le conoscenze che sono. E troviamo Plotino, per il quale il possesso indefettibile del bene si attinge proprio sospendendo l'uso della memoria e dissolvendo la coscienza personale. Questo dissolvimento della coscienza personale attende una non coscienza che è un irretano per coscienza. Quindi l'inconscio freudiano è un inconscio che basta, il lontano oriente filosofico religioso è mostro di questi itinerari. La comunità platinale, no? Con questo supercorso. Al contrario, l'inconscio freudiano è carico di valenze pratiche, perché non è risolutivo, non è l'attingimento di una supercoscienza al di là di ogni coscienza. Il corpo freudiano è carico di valenze transito perché i suoi contenuti psicologici e preverbali si bloccano a vicenda l'accesso alla coscienza, gli opposti coesistono caoticamente insieme senza negarsi, prelogici e premistici, poderose energie istintuali si scontrano tra loro, creando angoscia. Il silenzioso inconscio ha, per così dire, bisogno di redenzione. È un inconscio che attende una parola che in qualche modo lo risolve. Anche insomma, per il laico Freud, il silenzio ebraico è un negativo, ma un negativo che contiene in sé, in qualche modo oscuro, la domanda del suo superamento. La fondamentale negatività che il pensiero ebraico attribuisce al silenzio è presente fin dal tradizionale divieto di pronunciare il nome per eccellenza, il nome di Dio. Divieto che storicamente nasce dalla preoccupazione, in tempi di decadenza religiosa, di salvaguardarne la santità del nome di Dio da ogni possibile contaminazione. Il silenzio circa il nome di Dio non deriva dalla inconoscibilità della sua natura, o essere. Anzi, Dio è per eccellenza persona, e se ogni persona è definita dal suo nome proprio, può avviene proprio perché è creata a sua immagine e somiglianza. Quindi se l'uomo ha un nome, e non dice che non ha un nome proprio, si porta ragione Dio ha un nome proprio. Ma Dio non è ancora pienamente svelato. Il suo nome non pronunciato, non ancora pronunciabile, è un segno di mancanza. E solo nel tempo della pienezza messianica il suo vero nome sarà conosciuto, come si legge ancora nella nostra Apocalisse canonica, il libro che sarà il titolo, non si parla del nome, non si sa bianca sulla quale è stato il nome nuovo. La vita che rappresenta ad altri aspetti negativi, vorrei risparmiare un po' di tempo, del passivo, del silenzio, questa negatività del silenzio, è la lingua pesante e impacciata di Mosè, che non è donna ancora di la parola che Dio gli manifesta, no? Vabbè, dice nell'Esodo, sarebbe lingua impacciata, se non va la funzione, come di là poi ancora fonda, no? Il giudizio ebreo, parola che mi mangi, che bisogna di parlare, questa lingua che non sa dire, ancora una volta il silenzio negativo. La afasia del profeta Ezechiele. La afasia di Zaccaria, padre di Giovanni Battista, in tutte le connotazioni del silenzio come qualcosa di negativo. Dovrei parlare, ma non posso parlare. La parola non è, non si usa ancora il silenzio. E così, d'altra parte, tutto quello che il grande fenomeno che la tradizione ebraica chiama il silenzio profeta. Silenzio di profeta, ma la fia, il vino del profeta, lo profeta è il silenzio profeta. Dio non parla più agli uomini. Questo profetico che sarà rosso poi tra noi credenti della divinità e nella nascita di Gesù Cristo sarà venuto da Battista come proposto per cui si riapre la comunicazione delle chiese con gli uomini e forme del silenzio ebraico sono negativi. Ci sono tuttavia almeno un paio, ma credo che siano solo quelli per non hanno trovato altri. Quindi ci sono un paio di luoghi biblici in cui il silenzio può apparire invece in modo diretto, positivo, e sembra proprio nel senso che il silenzio è misticamente più adatto della parola per rapportarsi a Dio. In questo massoretico del Salmo 65, versetto 2, si legge infatti, a te il silenzio è lode. Un po' stranamente le nostre versioni preferiscono seguire il testo greco del 70 e tradurre te del 70, che è proprio opposto, non il testo, ma l'inno del testo. Ora, ma nella versione ebraica, per esempio in Maimonide, si deduce dal versetto citato, appunto una critica della preghiera verbale per un incontro del silenzio indigente dell'uomo che invoca al di qua di ogni parola, come nella lettera romana per esempio di con il silenzio di Dio da cui si attende la risposta, no? Quindi non si è connotato negativamente, il silenzio è l'opera a Dio perché nel silenzio l'uomo riconosce il proprio bisogno di dire la parola di Dio, cioè l'indigenza del suo silenzio si incontra con Dio che non parla ancora e invoca l'interessante pieno della parola di Dio. Questo è interessante dall'altro versetto del Salmo 62, versetto 2, verso Dio vivrà di silenzio l'anima mia. Sono forme che hanno il suono mistico per noi, ma se lo collochiamo nel contesto ebraico, e prima di questo l'invidienza del silenzio umano, che diventa positivo non tanto per restare in sé, come si fa in silenzio, ma quanto vuoto che esige la silenzio. Il dominante del silenzio ebraico resta dunque il vuoto, il buio, la notte, la morte della mancanza della parola. La finalista ha iniziato dicendo che il riferimento ebraico non alle parole, ma alla parola di Dio. Mancanza tuttavia, la mancanza è una mancanza tuttavia, lo ripeto ancora una volta, in cui può abitare l'esigenza della pienezza, della luce, del giorno, della vita. E come il sangue di Abele, il sangue di battere che arriva, sangue del mare, la parte che ma è una mancanza di vita che garanta mutamente la vita, che è un silenzio che non è negativo, ma ha la potenza di invocare la parola. Ma è uno dei nomi dell'angelo della morte. L'angelo della morte si chiama Duma, uno dei nomi dell'angelo della morte. Duma. La sensibilità che a proposito del silenzio e della parola l'ebraismo ha elaborato e che abbiamo tentato di indicare si riconosce facilmente nella cultura ebraica che stiamo vedendo anzitutto in Elie che si conosciamo nel Nobel per la pace contro l'umanità a proposito del quale il già citato Mer ha scritto Auschwitz è prima di tutto il silenzio. I martiri di Auschwitz sono i martiri del silenzio. E il Wiesel costruisce l'insieme della sua opera sul silenzio. I suoi racconti sono continue variazioni sul tema del silenzio. Silenzio che è soprattutto il silenzio di Dio di fronte all'orrore della Shoah, la fatta. Wiesel, che ha ricevuto una formazione tradizionale del suo villaggio transilvano di Sziget e che è stato deportato ancora ragazzo nei luoghi di sterminio dai quali non tornarono né il padre, né la madre, né la sorella, ripercorre le tracce del silenzio ebraico nei maestri del fascismo, orientale, del cui insegnamento si era alimentato. Dietro il prodigioso raccontare ebraico, dalla biblica Agadà di Pasqua, attraverso il fascismo della nostra Europa, fino alla più recente narrativa americana, in gran parte americana, l'immagine e vitale narrare, di cui ha fatto la poesia Martin Buber nei suoi libri, il messo narrare franco incombe. Il raccontare e tagliare, i vecchi cattivi, i maestri del narrare, raccontano per gli altri. Per aiutare gli altri a vincere quella malinconia che invade senza tregua il narratore. Il narratore sia dall'angoscia. Vincenza ricorda non pochi maestri cattivi assassinati dal silenzio, che è il libro contro la malinconia. Rabbi, Mendel di Vorte, un intorno alla metà del secolo scorso, secondo il quale la preghiera più elevata è piangere in silenzio. In lui, dice Wiesel, al silenzio divino, Dio non parla, risponde il silenzio umano, paralisi e infatti. Pensando ad Auschwitz, commenta così: penso al silenzio di voi, che diceva che il silenzio è completamente libero. Penso al silenzio lontano da voi, il silenzio di Siria che dove stavamo sopportando gli ebrei. E so che povero in calma, un appello, un grido che un popolo ha forgiato per tenderlo come un'offerta alla notte e al giorno, offerta di una umanità giunta al termine del villaggio, al termine della creazione. Al di là del decreto che resta e poi lo vedete anche come la rivelazione di Cristo nella Bibbia, il silenzio è la dimostrazione della debolezza umana e la sua tramita contigua. Ma il vertice del silenzio pacifico che è stato fatto in mente di Walter, ma si è fatto in mente maestro, che era di la fine della prima metà del secolo scorso. Il Koster termina la sua vita dopo essere isolato per ben 20 anni in assoluto. Quando un uomo ha ogni ragione per urlare e non può farlo, se viene lo desideri, egli ha emesso non è nell'appagamento nella sentimento di chiesa che si realizza nel senso, ma al contrario, del fatto che proprio nel silenzio si difende al massimo questo bisogno della parola, a costo, dice Lisa in un altro suo libro con cui riferimento si torna, non lo so cosa ne ripeto, non si parla di questa comunità ucraina. Si urla bontà. Il silenzio a coppe ha un peso e una densità tali da squarciare la notte. E questo silenzio pacifico, il ragazzo Wiesel, di nave pregata, come aveva detto 14 anni per attaccare la vento del mondo, l'incontra di persona nel lager per il momento della deportazione degli ebrei da Siria. Era lo stesso silenzio il giorno della partenza, nel cortile della grande sinagoga che serviva da punto di concentramento. Folli di rabbia, i gendarmi correvano in tutte le direzioni, urlavano e colpivano uomini, donne e bambini. Non tanto per far loro del male, ma per rompere il loro muto. Ma la folla non un grido, non un gesto. Ferito alla testa, un gesto si alzava, l'aria e marina. Il volto insanguinato, una donna marciava senza rallentare il passo. La città non aveva mai conosciuto un tale silenzio. Non un non un lamento, neanche i bambini piangevano. Il silenzio perfetto dell'ultimo atto. Gli ebrei uscivano di scena perfetto. Tra gli interpreti, dopo Auschwitz, del grande dolore ebraico, ci sono appunto due poeti del silenzio. Il premio Nobel e Mel Sachs, nel 1891 e Paul Celan, nato nel 1920 e morto nel 1970, e qui cito per la verità qualcosa dalla storia della letteratura tedesca di questi due poeti di Ladislao Mitzner. A cominciare dalla raccolta Eclissi Stellare, che è nel 1949, la poesia della Sacra questo diventa sempre più sostanzialmente poesia notturna del ricordo e del silenzio, con frequenti echi resi antichi, spesso felicemente reinterpretati nello spirito dell'ebraismo. Notte, muro del lamento, sono infine in sé i salmi. Ma chi tenga in un ultimo grido di invocazione e di disperazione, in una delle sue ultimissime poesie, intitolata Il Dante, la parola ormai disincarnata raggiunge, una parola di Wittner, raggiunge nell'umiltà del silenzio perfetto, che è la parte perfetta dell'anima, che chiamiamo significa totalmente diverso il silenzio, invece un perfetto. Il nome era Paolo Anser, nato in Romania nel 1920 da genitori ebrei di lingua tedesca, diventato in un lager, è considerato, senza dire il più grande poeta emerso dalla tragedia della guerra. In lui c'è la speranza sempre delusa di trovare una nuova forma di esistenza in mezzo ad un mondo ormai segnato in eterno. Appena cinquantenne uccide gettandosi nella penna, e il suo suicidio ha uno stretto rapporto con il silenzio, lo appena ricordando attraverso l'introduzione delle sue poesie, tradotte da Mondadori, da questo Mosentano, perché in Sevano si parla sempre più spesso del silenzio, come dire, si porta il bene del suo lavoro. Qui prende corpo della forte tendenza alla mitologia che Sevano in altre opere aveva già attribuito all'intera poesia. Quando Sevano parla adesso della parola, questa appare come una fiammella di femminismo, ma per quanto la parola, in confronto al silenzio, sia passata al secondo posto, il silenzio deve essere descritto, e la parola ruota attorno ad esso, cerca di avvicinarvi gradualmente, di darvi una forma più precisa possibile. Malgrado tutte le contraddizioni, gli elementi del contenuto vengono pur sempre integrati dalle parole e la lingua non può farsi. Sente il non senso del continuare a scrivere un'epoca in cui la parola ha perso significato, però di fatto continua a scrivere, perché trova un appagamento ideale del silenzio. Invece insieme, sente che la parola non esprime più, non più la potenza di esprimere, e scrive tuttavia anche il silenzio. Sembra più debole e impotente la parola, senza così di confrontarsi con il silenzio normale mentale. Dalle poesie scritte alla fine della sua vita risulta un carattere distante, una specie di semicoscienza. Il senso di partenza di queste poesie è la mancanza di chiarezza, il terrore, la costernazione, fino a aggiungere alle poesie postume in cui la lingua viene spinta fino all'assurdità, con una crescente confusione di linguaggio, invenzioni di parole, metafore, contraddizioni. Le poesie che sono state per Mosetano, come si può essere sotto la Mondadori, le poesie tardive di Celan si muovono alle limite dell'arte. Sono un peregrinare sulla cresta tra fallire e riuscire. Il loro linguaggio viene sempre sostenuto dal tono del mondo interno, interno all'arte. Si tratta quindi di un passaggio dalla parola al silenzio, ma un passaggio in cui la prova è la disperazione, non una prova pacificante dalla parola, ma una prova disperante, anche se si chiude tanto. L'impossibilità della parola è il silenzio, è in scena, l'impossibilità della parola è il silenzio come distensione, come morte, come Dumas, l'angelo della morte, poi. Un silenzio molto logorante della parola, ma la modifica e invece non più o meno felicemente non lo fa, ma ci sono però anche degli autori ebrei il cui ebraismo è riconoscibile anche contro le immediate apparenze, in cui il passaggio dalla parola a si connette invece in questo senso positivo, ma questo interno meno una domanda, abbiamo già accennato a proposito di Nelly Sachs, che approva una dimensione pacificante, ma l'esempio più convincente è stato quello di Simone Weil, per la quale la poesia, parola in due dai quaderni, la poesia è andare mediante le parole al silenzio, al senza nome. E per la quale, addirittura, la suprema rivelazione di Dio non è la parola, ma il verbo è il silenzio. Un'ebrea, in caso tutt'altro che unico, anticipa, ovvia, prende tutta la tradizione ebraica per aderire a mondi spirituali come il greco e l'indiano, in cui la sua anima ebraica crede di vedere la tenerezza e la misericordia, che non ha saputo scorgere nella propria tradizione, se la vedono funziona. La parola orale, tra parola orale e parola scritta, tra parola e silenzio, si aggira poi la meditazione poetica di Edmond Jabet. Anche per lui, scrivere vuol dire muovere dal visibile verso la non visibilità, verso la non rappresentazione. Vuol dire muovere dall'invisibile verso il silenzio, nel cui orizzonte dolcemente profondano le nostre parole. Il letterato Chabert parla di percorso dal libro al libro, assoluto e silenzioso. Una parola immutabile è necessariamente silenzioso. Afferma che il verbo sacro era il silenzio. Ma Jabez è colui che si parla anche del silenzio della fine del mondo, del perduto in fondo, del silenzio di tutte le partenze, delle riscoperte proibite, basso di piedi per terra, non senza morte, nuovamente il senso negativo. Per lui, per l'ebreo che è, il silenzio non sta nella busta vuota nella quale introduco la mia missiva, ma nel sigillo di cera bruciante che la sigilla è ancora. La vita di Dio fu di una brevità sconcertante. La sua morte fu la morte della sua folgorante parola. Quella vita è certo da testimonianza col suo silenzio. A quella morte di Dio, ogni granello di sabbia del mondo, cioè il deserto, che si vede una cosa che avverte nel deserto, il deserto del silenzio serva le tracce dell'assenza della parola di Dio, cioè della morte di Dio. Ha un silenzio che sta al di là di le parole, ma non vorrei guadagnare un po' di tempo saltando questo facendo che la Franz Rosen, un filosofo ebreo tedesco, che per la verità, intorno al quale per la verità a mio parere si è adunato qualche equivoco, perché molto spesso quando si si è convinto di aver scoperto in lui l'ebreo, si è accorto che non era stato il tedesco che era in lui, non cambia tutte le due culture, magari quando si sembra di aver scoperto il tedesco si è accorto che invece non era proprio l'ebreo, sono tutte e due. Lui parla, presenta, anche al di là della fronte del nostro al di là del nome stesso di Dio, cioè della costruzione ebraica tradizionale, al di là della mente, della parola, del nome di Dio, non c'è nessuno che la sia veramente molto bene. Ma qui direi che in questo caso Rosa è più un filosofo tedesco, non avevo di mai messo, eccetera, che non si risposta con la canzone. Dunque, con rare e tutto sommato spiegabili eccezioni, domina dunque nella cultura ebraica contemporanea, come in tutta la tradizione ebraica che la precede, la negatività del senso soltanto come fatto la è questa negatività, in quanto assenza che invoca una presenza, una parola che la presenza, mancanza che invoca un sentimento, ma essere paradossalmente il capovolgimento, il pronunciamento della parola salvifica che manifesta pienamente la misericordiosa potenza di Dio. Quindi quasi una specie di fede convulsa, no? Perché non è che diventa buono, perché si viene l'incarnazione dell'amore di Cristo, no? Poi si vede una specie di culto, si vede silenzio, non pensa che diventa buono ebraicamente, il culto resta una pura negatività, però una negatività la si invoca, la si dispera a si invoca. E noi che avere invocazione, non perché diciamo che non è il caso di dici, veramente il pianto è più forte di tutti, come il sangue del marte del Cipro, che non parla, però grida, così si dice. In questo senso capita, questa misteriosa presenza del Cipro, capita, attingendo alle radici dell'ebraismo orientale, che si è già messo con modo attraverso l'Ibis, che è vent'anni senza più parlare, ha fatto una parola, dice Tassa che il mitismo è un attributo della perfezione, nel senso che si arriva, per farlo è forse la vanità della parola, neanche la parola più senso, diventa veramente quello che è più vicino anche all'invocazione della parola divina, che di rompere una parola che rompa questo silenzio, o la vanità di queste parole, umane. Al rapporto, del rapporto di Cassa con l'ebraismo, ma questo non vorrei abusare della vostra pazienza, veramente Baioni, che Giuliano Baioni, che ha scritto questo bel libro su Cassa, letteratura ed ebraismo, appunto descrive questa ricerca disperata di Cassa, chiuso nel silenzio della sua solitudine, lui ebreo in un paese non in mezzo ad ebrei, lui di lingua tedesca in un paese dove una cultura tedesca, questa capacità di silenzio, mancanza di rapporto con la realtà che lo chiude nel suo silenzio, c'è la parola della letteratura, la parola della poesia, ma però perviene alla fine della sua vita all'abbandono, dice, non scrive più, dice Baioni, non si potrebbe immaginare, di Cassa, non si potrebbe immaginare condanna più grande della letteratura. Gli anni che seguono il fallimento del progetto del Castello, abbandonato come i due romanzi precedenti allo stato di frammento, rappresentano in effetti il ritorno di Cassa agli ebrei, la rinuncia alla letteratura. Cercato la parola, ha visto la vanità della parola umana, Dio non parla, la parola umana è vana, chiude le pietre, ma più che una rinuncia alla letteratura, direi che in questa vicenda che pone fine alla vita di Cassa c'è il compimento della via della letteratura, ha tentato di fare letteratura, di trovare la parola, ma trovare le parole soltanto umane. Il compimento della via della letteratura nella definitiva consumazione e distruzione sia della parola umana che della vita. La parola umana non è detto di più, ma per cui Dio non parla e non è stato più morire. Che si accede a Cassa che muore in quel modo, quando nella metamorfosi di Cassa, Gregorio Samsa, che diventa un modo di effetto. proprio il mutismo è un attributo della perfezione, ma molto è anche di spirito, la parola di passione negativa e mancanza come il verme muto, l'insetto muto, ma però nel momento che si percepisce come bisogno della parola, sofferenza della parola che manca, diventa esattamente positivo, la parola di nella narrativa ebraica contemporanea. Almeno una narrativa ebraica contemporanea, non si dà naturalmente un espirito di silenzio, insieme ai romanzieri, i narratori non fanno questo tipo di lavoro, ma ci si imbatte facilmente in testimonianze in cui la negatività del silenzio è almeno implicita. Vede nel silenzio di Dio la causa di ogni incertezza e confusione umana. Dal momento che Dio era completamente sconosciuto ed eternamente silenzioso, gli si potevano attribuire tutte le caratteristiche che si volesse attribuire. Dal momento che nessuno è stato in paradiso e Dio non è sceso sulla terra e rimane in silenzio generazione dopo generazione, come si può capire dove si chieda la verità? Dio non fa. Ma il non sapere dove risiede la verità, che altrove può essere accettato come la naturale condizione dell'uomo, per l'ebreo, che da sempre si confronta con la parola, è sentito come terribilmente minaccioso, non sapere dove risiede la verità. E questo è insostenibile. Molto prima di Freud, i nostri moralisti e autori di volumi conoscevano tutti i sintomi dell'isteria e tutta la scissione dello spirito. L'uomo era costretto a badare continuamente a se stesso, perché ogni secondo che passava costituiva un sottosimile sempre la prova di Dio, perché l'uomo noi era costantemente spalancato in posto del crimine e della morte. Un ebreo non sapere dove risiede la verità, perché Dio è perennemente spalancato sotto i propri piedi il posto del fine e della forza. Si incontrano quella espressione che cioè, citavo qui, ma non ho tempo. Questo Joseph Roth, che nel romanzo Giobbe, che più o meno tutti abbiamo letto, parla di questo, ecco, del silenzioso e maligno scorrere dei giorni. Scorrere dei giorni è silenzioso e maligno perché ogni istante, come dice Benjamin nelle tesi di filosofia della storia, ogni istante è la piccola porta attraverso la quale potrebbe entrare il Messia, no? Manifestarsi la parola di Dio attraverso la parola di Dio, la sua potenza che salva. Però in realtà tutti gli istanti passano, cadono dinanzi all'angelo, passano di questa montagna di ruderi, eccetera, e tutti no? Questo è allora che questo silenzioso e maligno scorrere dei giorni. Qui serve da fare un discorso, almeno di una nota, in cui il silenzio ebraico è un silenzio non spaziale ma temporale. C'è un saggio di Max Picard, tradotto in italiano da Comunità nel 51 o nel 52, in cui appunto intitolato il mondo del silenzio. Il mondo del silenzio non è il mondo degli spazi, ma molto più è il mondo del tempo. Passano gli istanti, passano le generazioni, ma Dio non parla più agli uomini, Dio non dice della sua pienezza. Volevo citare una cosa, siccome quando si parla dell'odierna società israeliana per via dei noti fatti politici, essa ci viene comunemente presentata come una società efficiente, dinamica, fiduciosa, aggressiva, violenta. Però anche di là giungono messaggi invece apparentati a questo terribile messianismo. È stato appena tradotto in inglese questo libro di poeta continua a tacere, un piccolo libro di Abraham e Joshua. È uno degli autori ebrei, oggi israeliani, oggi più affermati, è tradotto più o meno in tutto il mondo, tranne che in Italia fino a questo momento, nato a Gerusalemme nel 1936. Nel racconto che dà il titolo al libro, questo Il poeta continua a tacere, che mi sembra molto interessante perché l'ho cercato di dire dell'esperienza ebraica, dice: Questo lo dice veramente il prefatore, poi citerò due frasi sue, dice: l'inadeguatezza nei confronti della realtà, quella che provava anche Kafka e in che misura, no? Non potersi rapportare alla realtà. L'inadeguatezza nei confronti della realtà raggiunge il suo culmine nella perdita della parola, lo strumento umano per eccellenza, espressione sia dell'esperienza personale che di un sistema di valori, pensate alla tela che muore, non crolla. Allora la storia di questo racconto è questa, è la storia di un poeta che si è inaridito. Spetterà al figlio handicappato ricucire vecchi, faticosi frammenti del padre, dice al padre che l'ha venduto in un rigattiere, invece no, lui di notte pazientemente, questo ragazzo deficiente, cerca, perché vede che il padre non scrive più poesie, capisce che in questa è la distruzione del senso della vita del padre, allora cerca lui di creare delle poesie con questi frammenti, questi appunti del padre, no? Allora, per cucire vecchi, faticosi frammenti del padre per una nuova proposta di linguaggio, vorrebbe di nuovo fare qualcosa, parlare di nuovo quel linguaggio al quale il padre non parla più, non scrive più poesie. La poesia che ne risulta, che viene pubblicata da un giornaletto locale, il padre la scopre per caso, dice Joshua per bocca del padre poeta, è, come questa poesia, è demenziale, senza ritmo, involti, versi interrotti senza bisogno, ripetizioni che lasciano stupire, punteggiatura scorrendo, che dice Joshua, ma di che cosa è ancora possibile? È ancora possibile dire qualcosa? La parola consumata, la parola finita. Non c'è più, qual è la morale di questo racconto, di questo Zoraia? Non c'è più per noi uomini nessuna possibilità di linguaggio che non si sottragga all'insensatezza totale, se non per la briciola di tenerezza che nella consapevolezza dell'incomunicabilità è suscitata dal volto del ragazzo deficiente che ricompone follemente per oscuro amore del padre le parole che dovrebbero e non possono più comunicare. E racconta che dicono queste parole. Ecco il ragazzo deficiente, apre gli occhi rossi e pesanti dal sonno, cerca a tentoni gli occhiali per terra accanto al materasso, li mette, li guarda, sono in piedi accanto alla finestra. Un sorriso leggero, pulito, un po' triste, illumina. È quello che resta in questo autore israeliano, appunto, fa Israele, dei trionfi militari. Questo testimonianza, la parola umana è consumata, forse solo l'amore semi-consapevole, oscuro, che non viene dalla coscienza di un povero deficiente, può restituire questa briciola di tenerezza che dà ancora senso al comunicare, altrimenti la parola. Naturalmente si potrebbero tracciare moltissimi altri itinerari attraverso la narrativa, la lettura, la cultura ebraica, ma un cenno almeno è dovuto a Wittgenstein, ma entro nei termini scrupolosamente, che è dovuto a Wittgenstein, il quale ebraicamente rifiuta la continuità che misticamente e poeticamente si instaura fra parola e silenzio, per cui il silenzio è una specie di luogo d'approdo di una parola sublimata per dichiarare, nella celebre affermazione che conclude il Tractatus Logico-Philosophicus, la loro netta separazione e opposizione. Siamo chiari, dice Levino, però su ciò di cui non si può parlare si deve tacere, un'esigenza del resto che era sentita da tutta la Divina Classe, il Circolo di Vienna, ed era permeata fortemente da presenze ebraiche, che hanno questo senso. Attenzione con la parola, attenzione, distinguiamo nettamente, silenzio sta qua, le cose che hanno senso sono quelle che si possono dire. Altrettanto ebraico in Wittgenstein, sebbene apparentemente diverso, addirittura opposto, è l'avventurarsi di Wittgenstein, mi riferisco alla sua famosa conferenza un po' sull'etica, è l'avventurarsi di Wittgenstein contro la gabbia di un linguaggio impotente che non può afferrare ciò che importa afferrare. C'è insomma un non potersi accontentare del silenzio. Il silenzio non basta, bisogna dire proprio, ma che cosa vuol dire il linguaggio? La disperazione dice in questo questa conferenza Wittgenstein, la mia tendenza, e io ritengo la tendenza di tutti coloro che hanno mai cercato di scrivere o di parlare di etica o di religione, è stata di avventarsi contro i limiti del linguaggio. Questo avventarsi contro i pareti della nostra gabbia è perfettamente, assolutamente l'etica, in quanto sorga dal desiderio di dire qualcosa sul significato ultimo della vita, il bene assoluto, l'assoluto valore, non può essere una scienza. Ciò che dice non aggiunge nulla, in nessun senso, alla nostra conoscenza, ma è un documento di una tendenza nell'animo umano che io personalmente non posso non rispettare profondamente e che non vorrei davvero mai, a costo della vita, porre in rischio. Significare, ma che disperatamente va alla ricerca. Un'altra cena vorrei fare ancora, per concludere, a un altro pensatore ebreo, Walter Benjamin, che ci offre con il suo scritto sulla lingua in generale, sulla lingua umana, il più acuto e compiuto tentativo ebraico, e non soltanto ebraico, di lettura teologico-filosofica della parola e della sua vicenda. E cito da questo testo, cercando di ricostruire attraverso 15 righe di citazioni più o meno lo schema del suo discorso. L'atto della creazione, scrive Benjamin, ha inizio con l'onnipotenza creatrice della lingua. E alla fine la lingua si incorpora, per così dire, l'oggetto creato, la donna. Pensate appunto a Dio, nel capitolo secondo della Genesi, gli animali davanti ad Adamo, perché dia un nome a ciascuno. E il loro nome sarebbe stato quello che Abramo gli avrebbe dato, la potenza che la lingua ha prima di creare e poi di nominare le cose. Quindi, l'oggetto creato, lo nome, si appropria, si incorpora, per così dire, l'oggetto creato, lo nome. Essa, la lingua, è quindi ciò che crea e ciò che compie, è il verbo e il nome. Mediante la parola l'uomo è unito con la lingua delle cose. La parola umana è il nome delle cose, ma il peccato originale degrada il linguaggio. Ecco cosa dice l'uomo abbandonò nella caduta l'immediatezza della comunicazione del concreto, dove parlare era nominare, della comunicazione del concreto, il nome, e cadde nell'abisso della mediatezza di ogni comunicazione, della parola come mezzo, della parola astratta, della parola concettuale, anche di questo, della parola come mezzo, della parola vana, dell'abisso della charla, secondo l'espressione della chiacchiera, secondo l'espressione di Kierkegaard e Benjamin. Dopo la caduta, che rendendo mediata la lingua aveva posto le basi della sua pluralità, non c'era più che un passo alla confusione della lingua, delle lingue, va bene, no? Perché già la parola si era distaccata dalla concretezza dell'atto del nominare concretamente, singolarmente ogni cosa. All'asservimento della lingua nella charla segue l'asservimento delle cose nella follia, quasi come una conseguenza inevitabile. In questo distacco dalle cose sorge il piano della Torre di Babele e con esso la conclusione. Dopo la caduta, con la parola di Dio che maledice il campo, l'aspetto della natura si trasforma profondamente. Comincia ora l'altro suo mutismo, perché la natura era muta, ma l'uomo la nominava, invece comincia ora l'altro suo mutismo, a cui alludiamo, ecco il silenzio negativo per la sensibilità ebraica, a cui alludiamo parlando della profonda tristezza della natura. È una verità metafisica, e ogni natura prenderebbe a lamentarsi se le fosse data la parola. Essa piangerebbe sulla lingua stessa. L'incapacità di parlare, ecco silenzio come terribile, l'incapacità di parlare è il grande dolore della natura. E per redimerla è la vita e la lingua dell'uomo nella natura, e non solo, come si suppone, del poeta che parla oggi. Ovunque solo un albero stormisce e cheggia insieme un lamento. La natura è triste perché è muta, ma introduce ancora più a fondo nell'essenza della natura il rovescio di questa affermazione. È la tristezza della natura che la rende muta. Vive in ogni tristezza, forse anche nella nostra, la più profonda tendenza al silenzio, e questo è infinitamente di più che incapacità o malavoglia di comunicare. E concludo io su un problema: ogni tristezza, ogni silenzio è la perdita di ciò di cui si attende il ritorno nel dispiegamento messianico. Questa è così in Benjamin, l'ultima chiarezza, dice Benjamin, la parola di Dio. E concludo ancora con una citazione da Neher, dal quale siamo partiti, dicendo: la fede ebraica, perché Neher è un osservante scrupoloso della legge, è credente, la fede ebraica oggi si esprime con analoghi accenti nelle disincantate espressioni con le quali culmina questo libro di Neher, L'esilio della parola. Ecco cosa dice, ultimo foglietto, parola d'onore non ce n'è più. Il ritrarsi di Dio dal mondo, la sua assoluta trascendenza rispetto al mondo, questo è l'elemento proprio originale del concetto di Dio, il Dio ebraico, non è un Dio immanente al mondo, ma un Dio che si rivela. Il ritrarsi di Dio dal mondo, la sua assoluta trascendenza rispetto al mondo, rende possibile, secondo me, la libertà dell'uomo, lascia spazio alla libertà dell'uomo, fosse presente Dio, come dice Lisbon. Se venissi io con voi verso la terra promessa dovrei uccidervi ogni volta, perché mancate continuamente, dinanzi a Dio non può sussistere quello che non è perfetto, ma Dio si ritrae e lascia sussistere questo rischiosissimo spazio della libertà dell'uomo nel mondo, con tutti i suoi terribili rischi per l'opera stessa di Dio. Non c'è niente di garantito. Ormai al Dio che è ammutolito per lasciare spazio alla parola dell'uomo, si è venuto aggiungendo l'ammutolire dell'uomo di fronte all'orrore della storia culminato in Auschwitz. I due silenzi si incontrano, quello di Dio e quello dell'uomo, e tutto resta appeso a un forse, peut-être, dice Neher, il forse della speranza che nulla garantisce. Sono queste le parole di Neher. Il riso è la parola, le lacrime sono il silenzio. L'utopia ebraica, siccome Dio si chiude nel suo silenzio, l'utopia ebraica, rifiutandosi di essere illuminata dal dire dell'aldilà, supponiamo un dire mistico, un dire poetico, chiede di realizzarsi nel silenzio della solitudine umana. È dal di dentro del vuoto, dall'interno dell'assenza, dal cuore del no che scaturisce il sì. La fede è una genesi, appare ex nihilo. Proprio al fondo di questo senso si può sperare che ci sia questa inversione. Nel naufragio finale di ognuno dei suoi fallimenti, il silenzio scopre una nuova terra. La terra dove Dio parlerà, la terra del suo perfetto svelamento. Le parole sue. Il primo passo dopo Auschwitz pare dunque essere quello che si colloca nel preciso istante dove nulla esiste più, ma dove tutto può essere di nuovo. È l'istante del silenzio, di quel silenzio che un tempo, alle origini del mondo, soffocò la parola, per esserne non di meno la matrice, di quel silenzio che testè ad Auschwitz si identificò con la storia del mondo.